domenica 20 novembre, dalle ore 14, ci troveremo davanti al carcere di Opera per un presidio. Tic, tic, boom. Passeremo un pomeriggio fuori da quelle mura per stare vicino a tutti i reclusi e in solidarietà ad Alfredo Cospito, prigioniero anarchico rinchiuso in 41 bis nel carcere di Bancali, che dal 20 ottobre ha intrapreso uno sciopero della fame ad oltranza contro questo regime carcerario di tortura voluta dallo Stato. Oltre a lui, anche altri detenuti hanno iniziato a protestare da dentro in solidarietà ad Alfredo, unendosi con lui allo sciopero della fame, come Anna, Juan e Ivan, o non rientrando dall'aria, come Nicola Di Maria. Tante altre carceri, nelle ultime settimane, sono state in subbuglio. È il momento di avvicinarsi a quelle mura per rompere il silenzio che le avvolge e perché la nostra presenza possa amplificare il più possibile le lotte che i detenuti e le detenute intraprendono da dentro, ora più che mai. Al fianco di Alfredo e di tutti i detenuti e di tutte le detenute, contro il 41 bis, contro ogni galera. Vi aspettiamo il 20 novembre alle ore 14, fuori dal carcere di Opera. Tic, tic, boom. E torniamo in diretta, abbiamo appena sentito uno spot di lancio del presidio che ci sarà ad Opera domenica 20 novembre dalle ore 14 in poi. E ci prendiamo un po' di spazio per parlare un po' della situazione di Alfredo Cospito, il compagno prigioniero anarchico e rivoluzionario che è detenuto dal 5 maggio in regime di 41 bis nel carcere di Bancali a Sassari e che è già da un mese in sciopero alla fame, ha dichiarato di voler intraprendere e portare avanti uno sciopero della fame ad oltranza contro la sua condizione detentiva al regime 41 bis. Ricordiamo che il regime 41 bis gli è stato applicato in sostanza perché lui nel corso del tempo ha continuato ad avere scambi epistolari e cercare di partecipare al dibattito anarchico-rivoluzionario, ma questo ne parleremo meglio insieme ad una compagna di Milano che è qui ospite con noi. Ciao. Ciao a tutti e a tutte. Ciao, grazie e benvenuta a Radio Tagadà. E quindi niente, volevamo appunto cercare di partire appunto da questa situazione qui, dal fatto che Alfredo è in sciopero della fame dal 20 ottobre e cercare di capire come si svilupperanno che momenti ci saranno prossimamente anche riguardo la situazione detentiva di Alfredo, ma anche riguardo la sua condizione appunto processuale. Sì, facciamo un po' un ordine, no, di quelli che sono stati gli eventi che appunto hanno interessato in questo momento sicuramente Alfredo. Difatti lui si trova oggi recluso all'interno del regime 41 bis del carcere Bancali. Questa decisione del trasferimento avviene a maggio di quest'anno, come dicevi tu, no? Uno dei il motivo per il quale appunto è stato dato questo trasferimento è dovuto dal motivo per il quale Alfredo ha portato avanti, no, quello che è una corrispondenza epistolare al di fuori delle mura e dettata da questa appunto volontà, no, di portare avanti quello che è uno scambio e di contribuire a quello che è il dibattito rivoluzionario ad oggi. Questo naturalmente appunto ha portato al suo trasferimento e di fronte proprio a questa decisione il 20 ottobre Alfredo Cospito inizia uno sciopero della fame ad oltranza contro appunto il regime di 41 bis che gli è stato riservato e l'ergastolo ostativo. Dal momento dell'inizio dello sciopero della fame è iniziata una mobilitazione, ma anche precedente, no, a quello che è l'inizio di questa protesta, già dal suo trasferimento si sono susseguite diverse iniziative, ha avuto inizio una mobilitazione che nell'ultimo mese ha visto un un susseguirsi di diverse iniziative sia a livello nazionale che a livello internazionale. Questo sicuramente sarà una mobilitazione che proseguirà nei prossimi tempi, perché anche vediamo come sono stati già, no, anche programmati degli appuntamenti, come dicevi tu, a livello giuridico, a livello di processuale. Ci sono infatti due date che vedono quella del 1° dicembre, una giornata importante, perché appunto è fissato il riesame della disposizione appunto di 41 bis nei confronti di Alfredo Cospito, un'udienza importante in quanto dovrà pronunciarsi sulla legittimità della decisione della precedente ministra della giustizia Cartabia, che appunto ha applicato nei confronti di Alfredo il 41 bis. Quindi il 1° dicembre ci sarà questa udienza presso il Tribunale di Torino e verrà appunto, vedremo quali saranno un po', no, anche i risvolti a livello giuridico di questa specifica situazione. Sì, poi forse c'era un altro appuntamento, se lo volevamo ricordare, il 5 dicembre, sì, se non mi sbaglio. Sì, andavo un po' per gradi, nel senso che appunto quello che è la vicenda che sicuramente riguarda Alfredo vede anche quello che è la sede processuale, no, di Scriptamanent. Anche lì appunto c'è stato un risvolto a livello giuridico, dal momento in cui il 6 luglio scorso la Corte di Cassazione ha deciso di riqualificare da strage contro la pubblica incolumità, quindi parliamo dell'articolo 422 del codice penale, a strage contro la sicurezza dello Stato, quindi all'articolo 285. Per un duplice attentato contro la scuola allievi carabinieri di Fossano che avviene nel 2006. Quindi diciamo che queste due date, no, segnano un po' un importante punto a livello giuridico e anche, no, sono un po' anche la chiave di volta, no, nei confronti di quella che è la repressione messa in campo da parte dello Stato nei confronti di chi sceglie di lottare e di non abbassare la testa di fronte a quelle che sono le logiche, no, dello Stato e del reale oggi. Sì, anche perché per quell'articolo praticamente la pena prevista minima è l'ergastolo, e quindi nel momento in cui la Corte di Cassazione ha deciso che quell'episodio specifico di Fossano passa come reato 285, come strage, il minimo che uno può prendere per quel reato lì è l'ergastolo. Sì. Parlavi di molte iniziative in solidarietà che ci sono state sia in Italia che all'estero. Ricordiamo che sabato scorso a Roma c'è stato un corteo che ha visto attraversare le città, appunto la città romana e Trastevere. Nello specifico, in particolare, ci sono state anche un po' di tensioni, ma anche 2 settimane fa c'è stata un'iniziativa a Milano. Qualcuno a quanto pare è salito sulla gru del cantiere di Piazza della Scala. Se vuoi raccontarci nello specifico di quello che è successo a Milano un paio di settimane fa, secondo noi sarebbe interessante. Sì, infatti appunto come hai detto te, il 6 novembre all'alba di domenica due compagni sono appunto saliti in cima ad una gru posizionata accanto al Teatro della Scala, in Piazza della Scala, in una zona centrale della città di Milano, una zona per intenderci adiacente a Piazza del Duomo. Appunto è stata occupata questa gru ed è stato appeso uno striscione contro il 41 bis e in solidarietà ad Alfredo e agli altri compagni che si sono uniti allo sciopero della fame. Difatti prima non lo abbiamo ricordato, subito dopo l'inizio dello sciopero della fame di Alfredo anche Juan dal carcere di Terni ha iniziato lo sciopero della fame, a cui è seguito poi da Ivan detenuto in un carcere in Francia, e il 7 novembre anche Anna ha dato inizio allo sciopero della fame in solidarietà alla lotta portata avanti da Alfredo Cospito. Quindi lo striscione appeso sulla gru in centro a Milano recitava appunto la solidarietà, no, ai compagni che all'interno delle mura di un carcere infame scelgono, no, di portare avanti una lotta. E il motivo per il quale si è scelto comunque di portare avanti un'iniziativa, no, come quella di un'occupazione di un luogo centrale della città era quello di spezzare, no, quella normalità che attraversa le strade di una città come quella in cui ci troviamo anche oggi in diretta, no, un luogo che per chi lo conosce, ma penso che sia possa essere, no, un po' lo specchio visibile a tutti, no, di questa città che appunto frenetica e terribile, sembra quasi impossibile o comunque difficile poter portar fuori, raccontare alcune cose che accadono, no? Soprattutto anche per quello che riguarda la repressione nei confronti di compagni e compagne. Quindi abbiamo pensato che poteva essere utile comunque trovarsi in un luogo dove c'è un passaggio di gente continuo e spezzare quella normalità, no, che si vive in quelle strade, e quindi portare anche dei racconti e delle storie. D'altra parte, uno dei motivi è anche relativo a quello che è l'obiettivo specifico del 41 bis, quindi quello di, no, spezzare i legami, spezzare quelli che possono essere i confronti tra il dentro e il fuori, isolare, e quindi era un momento per ritrovarsi e parlare di 41 bis, parlare di carcere, raccontare quelle che sono le vicende che interessano le carceri italiane nell'ultimo periodo, perché comunque vediamo che le carceri si trovano in uno stato di sobbuio, da un sovraffollamento a un numero di suicidi che all'oggi dal gennaio 2023 vedono 77 il numero, no, di persone che si tolgono la vita all'interno di quei posti. E quindi era un momento, no, per portare fuori, per dare continuità a quella volontà, no, di parlare, di riportare la discussione, no, su quella che è la repressione e quello che è il carcere. E di sicuro ha avuto il suo effetto, perché insomma sulle principali testate giornalistiche milanesi, ma anche non, questa notizia dell'occupazione è uscita fuori. Ma un'aggiunta rispetto a quello che dicevi prima: ci sono dei compagni in sciopero della fame, ricordiamo Juan, Ivan ed Anna, ma anche altri compagni e compagne in Italia e non solo, stanno prigionieri, parliamo sempre di prigionieri e prigioniere, stanno adottando delle forme di solidarietà all'interno delle carceri. Citiamo Nicola Di Maria, compagno delle BR, della colonna Walter Alasia, che ha intrapreso delle forme, insomma, di protesta all'interno del carcere dove è detenuto, in solidarietà ad Alfredo, ma anche di alcuni compagni nelle carceri greche o inglesi, anche dei compagni proprio, no, delle BR che si ritrovano reclusi all'interno delle carceri in regime di 41 bis. Sì, per chiudere un po' questo momento di aggiornamento riguardo alla situazione di Alfredo, interessante sarà il presidio che si terrà ad Opera il 20 novembre alle 14. Se hai voglia di dirci due robe al riguardo. E sì, poi concludiamo. È un appuntamento immediato, sì, appunto domenica 20 novembre alle ore 14 ci vedremo davanti al carcere di Opera, un carcere che si trova ai confini della città meneghina, un carcere dove oltre alle sezioni comuni troviamo anche le sezioni 41 bis, quindi si è ritenuto importante tornare fuori da quel carcere, portare solidarietà a chi ne è recluso e parlare, cercare di essere presenti anche di fronte a quelle celle, no, che vengono tenute nascoste e quasi irraggiungibili. Quindi ci vediamo domenica dalle 14 davanti al carcere di Opera. Perfetto, noi allora ti ringraziamo per gli aggiornamenti e noi ora andiamo avanti. Grazie con a voi. La puntata. Magari ci risentiamo sperando di avere buone nuove riguardo al compagno in sciopero della fame ad oltranza, come l'acciaio che resiste, come Alfredo che resiste. Ora ci sentiamo una traccia appunto di Jobophobic, lo Stato vuole piegare Alfredo ma lui come l'acciaio prova a resistere e non si piega. Jobophobic con Come l'acciaio che resiste. Se mi guardo attorno mi viene voglia di vomitare. Da una parte lo scienziato a cui devo credere per non essere ignorante, dall'altra il moralista e il filosofo, dei quali devo accettare i comandamenti per non essere un bruto. Poi viene il genio, che devo glorificare, e l'eroe innanzi al quale devo inchinarmi commosso. Poi viene il compagno e l'amico, l'idealista e il materialista, l'ateo e il credente. E tutta un'altra infinità di scimmie definite e indefinite che vogliono darmi i loro consigli e mettermi, finalmente, sulla buona via. Perché, naturalmente, quella su cui cammino io è una via sbagliata, come sbagliate sono le mie idee, il mio pensiero, il mio tutto. Renzo Novatore.